FM. The Heartbreak, loro sono i Def Leppard, riascoltati con una canzone di qualche tempo fa, adesso sappiamo che sono pronti, anzi stanno per pubblicare il disco nuovo, abbiamo sentito anche il singolo nuovo. Questa è una canzone che risale al lontano 1981 dal disco High and Dry. Dunque, sta per partire un Trisdassi, nel frattempo vi ricordo ancora i contatti con i quali interagire con Rock FM: 335-100-7777 il numero SMS, oppure attraverso il sito rockfamily.it, visto che per il momento il mio indirizzo email sta soffrendo di qualche problema tecnico, di qualche problema dovuto alla manutenzione. potete utilizzare il topic che ho aperto su rockfamily.it per qualsiasi tipo di comunicazione vogliate mandarmi. Intanto vedo che già qualcuno sta scrivendo, quindi insomma a breve verrò a rispondervi naturalmente. Poi più tardi parleremo, questo è un invito all'ascolto che faccio a tutti coloro i quali suonano, a tutti coloro i quali che hanno una band emergente, perché tra poco parleremo di un concorso molto interessante, si chiama Primo su Mille, e avremo al telefono Umberto, uno degli organizzatori, quindi drizzate le orecchie e accordate le chitarre. Dicevo, parte, a differenza di come faccio io, per esempio. No, vabbè, non so se avete letto sul blog che ho scritto, chiedo scusa ai puristi che ovviamente hanno sentito una canzone, perché Max, ballando sul palco di Piazza Liberty a Milano, venerdì scorso, ha inavvertitamente tirato un cazzotto fortissimo al manico della mia chitarra e l'accordatura è un po' saltata, soprattutto una corda ne ha risentito tantissimo e ho dovuto fare un assolo un po', come dire, un po' inventato, perché era come se non avessi una corda, però ce l'avevo, mi veniva di usarla e poi non la potevo usare, quindi è stato un disastro e allora mi sono dovuto poi riaccordare dopo. Comunque, a parte questo, piccoli incidenti di percorso, dicevo, sta per partire un Trisdassi composto dal nuovo dei Journey, dai Radiohead e dai Black Rose. Closed, we're lost in one sweet embrace. Since those days, the world has changed, but our love remains the same. God knows if I had our share of saving grace, and I'm proud of all the blessings you have given me. We'll be right back. disease. Put Goodbye, Daughters of the Revolution. Questo è il nuovo singolo dei mitici Black Rose, ritornati dopo che ne sono successe di tutti i colori, mamma mia. Vabbè, complimenti a loro comunque per aver registrato questo bel ritorno. Ora staremo a vedere questo bel rientro, staremo a vedere come andrà a finire. Allora, un personalissimo saluto al grandissimo Peter in the Shadow che ci è venuto a trovare. Insomma, e a proposito di cose che mi riguardano, di programmi, insomma, Peter ha lavorato per diversi mesi al mio programma, ne volevo approfittare per invitarvi tutti assieme alla Nottedo che si terrà a Rock FM il martedì 27 maggio a partire da mezzanotte, dove poi domani scrivo tutto bene anche sul blog edorossi.blogspot.com, dove porterò la mia collezione privata di dischi, porterò qualche chitarra, verranno un sacco di amici a gemmare e suonare con me, visto che avremo la possibilità di suonare in studio, e quindi una lunga notte dedicata al rock and roll, come dire, come con hosted by, come dicono televisioni americane, da il DJ Edo Rossi. Poi vediamo se magari riusciremo ad avere anche altri ospiti così di questo tipo. Comunque l'appuntamento, vi ricordo, per la Nottedo è il fissato per il 27 di maggio a partire da mezzanotte. Poi, essendo che ne so, l'ora sarà tarda, magari chi lo sa, magari proviamo a svegliare qualcuno, non lo so, proviamo a fare qualche telefonata, magari proviamo a fissare qualche appuntamento telefonico, eccetera. Mi ricordo feci una notte una volta dalle 4 alle 6 del mattino per una maratona benefica quando lavorava a Radio Eclisse, abbiamo chiamato i panettieri, abbiamo chiamato, no, ma divertente, vediamo cosa verrà fuori. Intanto House of Lords. Come down off your throne and leave your body alone.